si chiama Un giorno di sole. Senza un nome né una storia, senza madre, padre, casa, senza neanche più l'età. Si svegliò in una città uguale a tutte le città, in una strada con negozi di frutta fresca e giornali, con notizie tutte uguali e meloni eccezionali. Si svegliò da un lungo sonno e si ricordò il suo sogno di svegliarsi senza un nome né una storia, senza madre, padre, casa, senza neanche più l'età. Si svegliò in una città uguale a tutte le città, scese a piedi per la strada salutando chi incontrava, comprò un grappolo di uva dal sapore di pesticida, sentì un eco in lontananza, riconobbe certe grida, quindi poi si guardò intorno, fece un giro su se stesso, alza gli occhi verso il cielo, beve acqua che sgorgava da un muro, come fosse una ferita, una forza di vita. Oggi andiamo di sole, sembravano tombe, tombe che sembravano case, con un cane abbandonato che anche nero si scambiò qualche frase. Il cane non aveva un padrone ma ne avrebbe voluto uno, lui aveva mille padroni ma non obbediva a nessuno. Il cane disse, così tu credi, a te ti piace pensare così, a te ti sembra di essere libero, ma a qualcuno devi dire di sì. Si guardarono negli occhi e poi andarono per la stessa direzione, a cercare un po' di equilibrio tra la realtà e l'immaginazione. Si guardò le mani e vide le sue impronte digitali, le confrontò con quelle degli altri, si accorse che erano uguali. Si specchiò sulla vetrina, era la prima volta che si vedeva, la sua faccia non era un granché ma era l'unica che c'aveva, e disse, oggi è un giorno di sole, niente mi può fare male, niente mi può fare male. Il giorno che divenne pazzo fu anche il giorno che divenne sano, perché sempre che è diventato pazzo sono scritte su una mano. Sono matto, devo stare attento, devo prestare attenzione, perché potrebbero scoprirmi e complicare la situazione. Allora scese giù dal cielo ed una banca gli fece un fido, trovò una donna bella davvero con i capelli e l'ultimo grido, fece due figlie, comprò una casa, la colorò con l'arcobaleno, vide in TV che anche quando piove da qualche parte è sereno. Yeah. sole, niente mi può fare male. Oggi un giorno